C. Alla fermata. 1. Ascolta il dialogo. Ciao. Ciao, come va? Così così. Ho la prova orale di letteratura francese la prossima settimana. La prova scritta è difficile. No, no. Per me la prova orale è un incubo. Ho paura del prof Sassi. Beh, sì. Capisco. Stasera esci o studi? Non lo so. Sono stanca. Forse vado a dormire presto. Vieni con noi a sentire un concerto. Suonano gli amici di Francesca. Sono bravi e sicuramente non facciamo tardi. Non so. Alle 11 siamo a casa. Domani mattina comincio a lavorare per un negozio di computer. Alle 7. Allora sì. Se torniamo presto, vengo volentieri. Ok. Ci vediamo verso le 9 ai giardini. Va bene, a dopo!